progresso per un controllo, sono d'accordo? Avanti, avanti, chi è? Avanti il brecco. Chi è? Io sei poco basso già, cosa hai combinato? E adesso sono, mettiti in un altro posto, ma non ti sento. Vamos. qua, quando poi entra non c'è problema, il segretario che fa il crollo. A parte il tiro, la buonasera. Ehi, ciao già. Ciao, anche Antonello, l'ho ascoltato basso basso, ma non ho capito chi Antonello è. Beh, Barracuda. Calma, Antonello Barracuda, dici. Quanto è Mario, quello che ha messo l'ambulanza a Usci? Quello lì era un nostro volontario. Io sono qua. Aspetta che c'ho una multipla che mi sta per... Ehi, c'ho una presa multipla che sta rifiutando, aspetta che me la cambio, sennò divento scemo qua, aspetta 2 minuti. Io ci sto chiamando. Se va bene, non uso più niente, cazzo. L'ho acceso oggi, cioè oggi, l'altro giorno già lo sai. Solo ho messo una presa tripla e sta rifiutando. Capito, l'ideale non me lo sopporta, sento ogni. Insomma, ma ci metto la ciabatta, almeno sono più tranquillo. La ciabatta, l'altra te la metti come mascherina. Ascolta, Barracuda, ci sei ancora? Sto provando la radio, che tu forse sei più lontano di tutti. Mi dai un controllo, se ti viene bene, con questo passaggio. Bene, scusate già. Guarda adesso che faccio l'altro passaggio, adesso sono normale, con 3,5 quasi 4, così mi vedo un pochino la differenza di questo amplificatore piccolino. Bene, bene, va bene, dai, ti ringrazio, quindi 20 dB dai, all'incirca. Allora io come arrivo lì a Usci, ma l'antenna qual è messa, quella che avevi là oppure un'altra? Ho 13 anni, ho spontato, è uscita come se fosse nuova. E ossidata, non era ossidata, appena ne aveva mano, d'acciaio è uscito subito, era superficiale, comunque è uscita subito, sono passate 2 girate, così è uscita pure. E vabbè, il materiale che conta, Antonio, io adesso l'ho cambiata e mi sono messo la grimasta. Aspetta un attimino, Antonio, no, aspetta, ho cambiato radio, volevo sapere con questa che differenza c'è. Bene, vabbè, ti riconto che l'ho appena acceso, quindi è un pochino, diciamo, un bassino di watt. Vabbè, tutta un altro pianeta. Va bene, no, sto facendo andare anche gli altri, anche se gli altri sono, diciamo, dei veicolari, però se la tirano anche loro. D'accordo, Gianni, riprendi. Però c'è il filo del discorso. Sì, esatto, ecco. Un pugno. Ehi, dammi controllo adesso, uno del testo, se non è meglio il peggio. Ho cambiato la tripla, che era tutto un casino. Guarda, a parte il bip, era portato in bocca, va bene. La metà è grande, già, aspetta. Poi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aspetta. Staccato lineare, guarda un po'. Faccia così che è meglio, molto più chiaro la radio, si sentiva che stavi pompando, però è meglio così secondo me. Vabbè, sono contento. Adesso faccio un'ulteriore prova con un'altra radio. Antonio, mi dici dalle tue parti sempre se è cambiato il segnale, cambio radio però. Gianni, riprendi un attimino. Io e l'altro. Antonello di Usci, Antonello di Usci. Ma guarda, ehi, abbiamo fatto la lavora. Ah, meglio così, dai, sono contento. Vedo questa lavora. Guarda questa qua invece, si è cambiato il segnale del radio. È cambiato totalmente, almeno ho fatto il coso, penso di sì. Barracuda, eccomi, dai, questa è un'altra radio. Vedi un pochino se ha cambiato qualche cosa, anche di segnale. Bene, grazie. Riprendi già, riprendi. C'è un po' grigio il parcheggio, un po' grigio ci sei. Sempre molto basso, a malapena. Proprio a malapena, non solo detto sia, però arrivi bassissimo qua. Ma l'ho capito. Stanno mettendo una portata, ti sento. Prova di nuovo. Capo, adesso sì. se l'ha portata la Felice, magari. No. Ha detto che ce l'ha il portatile, ma non sta con la loro portatile, ha detto che ce l'ha. Ed è ancora il comune. Avanti di nuovo, continuo, poi per girare. Ehi. Adesso Gianni ha migliorato il passo di segnale, però la radio c'è, vero? Buttaci tutto! Com'è Baracù? Bene, dai, no, ho ripreso un pochino con questa, con l'altra. Sì, mi va un pochino in saturazione, credo, anche per via dell'amplificatore. Ecco. Ciao, buonasera a tutti, ho appena acceso, non so chi c'è, ho sentito te Gianni un attimino e Tino, buonasera a tutti gli altri, se mi ricordate i numeri. Ciao Roberto, mi sentito, così anche a te. C'è Barracuda da Ossi, poi c'è un pomeriggio che non so se lo senti perché stavo parlando con Portabile, Tino e io, e basta. Ah, ecco ve lo confuso. Ciao Roberto. Ciao Tino, poi che mi hai detto Barracuda, avanti Barracuda, a Vuglia, 9+10, cioè, poi chi c'è Gianni, un altro mi ha detto? Antonello Alice. No, è Pomponio. Antonello, tu sei? Ciao. E poi c'è uno che sta chiamando, fate un attimino di bianco, c'è uno basso che chiama, avanti. Ce n'è uno sotto a lui, aspettate un attimino, fatelo entrare. Chi sei, avanti? Ma chi è? Eugenio quello che parla sotto. Allora lasciatelo parlare, si sta presentando, ha salutato, lasciatelo parlare. Chi è, avanti? Chi è questo che sta parlando? Ha detto buonasera, lasciate un attimino di bianco, scusate un attimo, avanti chi è? C'è uno che sta mezz'ora chiamando, lasciatelo parlare un attimino, scusate un attimo. Avanti, chi sei? Fatti sentire. Sì, ti ascolto, non ho capito il nome, da Sassari, chi sei? Come sei così basso? Boh, non ho capito il nome, già lo senti tu? Periferia. Aspetta che è in barra mobile, però non ho capito il nome, chi è che l'ha sentito avanti? Aspetta Antonio, scusate, ma è un po' di ordine, cacchio, sta entrando una persona, non lo fate parlare. Tu che sei in periferia, come ti chiami? Chi? Alfa 21. Vabbè, ma se io lo rilancio Gianni, tu gli parli sopra, io non lo ascolto. Alfa 21, buonasera. Cazzo, vabbè, sei bassino, qua ti ascoltano un po' basso, però è giusto anche far entrare quelli bassi. Ho sentito che c'è anche Benito, ciao Benito, buonasera. Già vai bene. Robby, riprendi. Vabbè, non lo voglio riprendere. Eugenio, buonasera anche a te. Sì, io me la riprendo, mi saluto e va a essere più ricci perché c'è troppo casino. Non riuscite a far rispettare una ruota, che è un casino, uno parla sull'altro. Ciao Benito, ho sentito, ho aspetto la rimane. Sì, ma da lontano però, almeno 4 metri di distanza. A me non mi senti Benito. Tu. Beh, ci voleva il coronavirus, come ha detto il giro ieri, ha fatto entrare al baracchino. Sì, però adesso è molto meglio, in confronto a mesi fa, diciamo. Io qua, Santiago è basso, dai, Santiago 7, però la radio è lì. Va bene, Gianni, non ti adirare, entra. Avanti, chi è il break? Buonasera. Ma se fai il break non entri, non è neanche giusto, mi fai rimanere male. Adesso mi offendo, non ti faccio più entrare. Pomponio, quello l'ho fatto in bocca, vabbè, quello che ti dica. Attento, Barracuda. Entra la Barracuda, avanti, dai, di là tu anche tu. Con questo ti ascolto meglio, con l'altro era troppo bassino, avevo meno recensione io anche. Brecco. Ehi, ha registrato. Va bene, purtroppo siamo così. Siamo fermi, siamo agli arresti domiciliari, quindi dobbiamo continuare a andare avanti, se Dio vuole, che pesca subito. Avanti, Brecco. Ciao Tino, buonasera, Gianni Rubroffetta da questa parte, buonasera a tutti. Ciao Gianni, ciao, compagnia di Benito, Eugenio, Barracuda, Gianni Offeso, Antonello Pomponio con la patata in bocca, Benito, credo che verso alto. Ehi, ehi, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Io Barracuda la sento molto basso. Buonasera Benito, buonasera Eugenio, buonasera Gianni, insomma buonasera a tutti, dai. Avanti Barracuda. Sì, buonasera, saluto. Buonasera, buonasera a tutti. Non ti sente nessuno Antonio, solo 9.40 arrivi qua, ciao. Se sei vicino tu, cosa vuoi? Io ascolto 5-6 oscillante. No, no, io non sono vicino, è che sono. Io sono la tromba, sono il. Come si dice Tino? Il. Boh, non mi ricordo. No, vabbè, era un tiro di schioppo. Tiro di schioppo nel senso che lo vedo, dai, da Ussi. Appunto, io no, io sono un fosso. Tu c'è una tromba dell'ascensore. Ecco. Esatto, esatto, la tromba dell'ascensore. Dimmi. Capiti di che intendi a volte. Certo, non lo posso soffrire. Un caso avevamo a Sassari. 26 ce n'è a Sassari. 26 contagiati da questo cazzo di cogio lì, di cardiologia dell'ospedale civile, di quest'uomo di 81 anni che è morto, contagiato da tutti. Avanti break. Papà, ben sentiti, Giovannino Cagallongo da questa parte. Ciao Giovannino Cagallongo. Allongo, allongo, ma lo caga, non ti avvicina assai. Sì, ti, l'ha letto adesso, c'è anche su internet, ma dimmi tu, adesso è un bel casino. Ho sentito di questo anziano, che dovrebbe essere il nonno di una che conosco io, a distanza però, Non manco ci mi baghi, mi fa questo dorre io. Cosa gli fa? Non vedi cosa? Ma io guarda, l'ho cancellato a Corottolese da 30 anni fa, quindi sono nato a Corottolese, ma sono sassarese. Poi se avete più bisogno voi, portatori di Sassari, che noi di questo giorno. Oggi ha ragione Gianni in questo momento, togliete che smarcata lì dalle parti vostre. Vabbè, ma sono passati da voi prima. Vai, ero mollo in chiva, la Marinella, vicino a Pedro, ti canti il Bosco Dorrisi, città di morti, cazzo. No, Gianni, come hai fatto a lavorare per 35 anni in quel posto? Meno male, me ne sono andato, c'avevo 20 anni io. Aspetta, sono 38, non 35. Cazzo, mi siete dimenticato Roberto Quadrato, eh? Quanto Quadrato c'è? E dov'è? Vabbè, Roberto il Tondo. Beh, vi sto ascoltando, dai. Ciao, vabbè, volevo passare a trovarti l'altro giorno, ma sono uscito proprio 10 minuti, ma ho evitato, meglio di no. Un abbraccio, come stai, bene? Sto bene, adesso mi ha mandato un messaggio un amico che gli hanno mandato da Milano, una cosa un po' delicata, speriamo che non sia così, che bisogna stare attenti alle scarpe, perché dice, infatti i cinesi la prima cosa che hanno notato qua, dice, voi avete sempre le stesse scarpe, come utilizziamo le scarpe? Possibilmente lasciarle fuori da dentro l'appartamento, utilizzarne un paio solo e poi quando si entra a casa cambiare le scarpe, perché dice dura sull'asfalto 9 giorni, infatti in Cina stanno disinfettando tutte le strade, infatti non si capiva per quale motivo, proprio per quel motivo gli mi ha mandato un audio, che gli ha mandato un'amica dottoressa di Milano, ha detto stai attento perché il virus si attacca anche nell'asfalto, speriamo che non sia così, se no sono problemi gravi, perché io le scarpe le ho portate dentro casa. No, io avevo già tenuto conto di questa cosa perché ne ho due che lavorano in ospedale, due miei nipoti, la figlia di una sorella, la più grande, e la figlia dell'altra sorella. Lavorano tutte e due ad Alghero, una al Marino e una all'ospedale civile. E mi ha detto proprio questa cosa l'altro giorno. Infatti io per uscire uso un paio di scarpe da tennis, quando rientro le do una spruzzatina di alcol puro, sotto proprio la scarpa e le metto fuori. Capito? No, è una cosa, cazzo, sta diventando una cosa seria. Poi adesso in più si sono aggiunti questi 26 che praticamente hanno tra parenti, medici, paramedici, eccetera, eccetera, quindi a Sassari sono diventati 26 nel giro di 12 ore, da stamattina a stasera, capito? Di quest'uomo di 81 anni che è morto in cardiologia all'ospedale civile. Ma come si fa? Ma come si fa? Ma porca puttana! Ecco! Io ho sentito 80, Claudio, hanno fatto 80 tamponi positivi alla cardiologia. No, il problema è le mascherine che ci hanno mandato dalla Cina, ci sono passati per supereroi e ci hanno mandato mascherine a casa igienica. Io col cuore, stiamo attenti veramente, perché è una cosa veramente che sta diventando troppo troppo pericolosa, soprattutto Gianni, te lo dico come un fratello, stai attento a portare il cane, a ricevere gente a casa, agli spostamenti anche piccolini già, stai attento, questo mi ha raccomandato sono otto chi ha patologie, come l'ho detto anche a mio fratello, diabete e altre cose. Stiamo veramente attenti perché non si sa come cacchio va a finire questa cosa. Riprendi Gianni e fai entrare il break. Io non sto uscendo da casa. Sto mandando Marco a portare il cane, portando di mascherina, di permesso, tutto a posto. Scende, porta il cane a risalire subito, no, non ci sono problemi. Avanti, prego. Seia, buonasera Claudio, buonasera anche Gianni e l'altro che sento piccolino. Ciao la Breccia, c'è anche Antonio, mi trovo vicino di casa. Fate girare un attimino, c'è anche Tino, c'è tanta gente. Comunque un abbraccio a tutti, buona serata a tutti. Ti riprendi tu, dai, fai girare tu che già lo senti a Antonello, Antonio, a tutti, dai. Sì, vabbè, no, il discorso già è serio, non è da sottovalutare. L'ho saputo anch'io stasera, questo fatto delle scarpe. So che, oddio, io ci lavoro in strada, quindi quando entro, entro con quelli, non è che me ne cambio, a meno che sono proprio fluide, mi cambio in casa, speriamo che non sia vero, comunque da domani adotterò un diverso sistema, qua così a Campagnolo, perché non è da sottovalutare anche questa cosa qua. Va bene, Eugenio, riprendi. Non sento nessuno io, scusate se sono entrato. Aspetta, riprendo io. E comunque poco abbiamo da prendere dai cinesi, visto che sono voluti passare da grandi supereroi, ci hanno mandato mascherine e carta igienica, ci hanno mandato. Comunque Claudio, riprendendo quella cosa delle scarpe, è una bufala quella cosa lì, finché non c'è ufficialità dello Stato, non bisogna credere a tutte queste cazzo di bufale che cosa. Quelli che sono stati contagiati in ospedale sono nel reparto, tutti i medici e ricoverati che c'erano lì perché non hanno avuto poca... State parlando uno sopra l'altro, state attenti, lasciate il bianco tra un passaggio e l'altro. Comunque non è una bufola, non lo possono dire per non creare panico, è vero, perché io ho la telefonata registrata, se volete ve la faccio ascoltare. Sì, ce l'abbiamo tutti la registrata, l'hanno mandata tutti quanti, ce l'abbiamo, se la poi se la faccio ascoltare anch'io, ma sto dicendo che è così. Vabbè, l'hanno mandata tutti, ce l'ho anche io. C'è qualcuno che parla però sotto, lasciate parlare, avanti chi parlava, chi chiamava Roberto. Chi sei, Eugenio? Sento l'accia dopo. No, assolutamente, non sono io. Va bene. Ehi, avanti là, dai, facciamo girare, fai Claudio, fai torre controllo e riepiloga chi c'è in rete, avanti. Aspetta, se mi sentite riprendo io, dai. Antonio Il Grode, ciao Roberto, ciao a tutta la ruota, compreso anche Antonello Freccia Blu, Freccia Rossa, lui è Freccia. Va bene, comunque, poco hanno da fare tu, i cinesi, dopo che ti ripeto, ci hanno mandato le mascherine e carta igienica, non hanno da dare consigli a nessuno. Ma questo che è Antonio? Sono io, se muo, sono basso perché sono con un portatile. Chi sei, non ho capito. Antonio Grode, Mazzone. Allora già è lui, cacchio, è inconfondibile, dai, ciao Anto, tanto tempo. Ma Robè, beh, tutto bene. Ehi, ti vedo ogni tanto quando fai qualche cosa che pubblica, anche poco fa ho visto la tromba, la suonata del corso. Hai fatto troppo ridere, è sempre simpatico, ciao, mi senti tanto. Ti ringrazio, monta tua. Passo, dai, facciamo girare, Antonello, riprendi, dai. Antonello Freccia è morto. Hai già tu. Io riprendi, Robè. Anto, ma cosa stai uscendo? Sei basso di radio, il segnale 9, ma di radio sei bassino. Aspetta che provo a aumentare, no, non aumento nulla, no. È un Linoid CB294. Cioè, sicuramente arriva via bomba, ma ti sei trasferito di casa? Cingomi. Oh, c'ho l'antenna di cingoma, c'ho. Ah, così, ok. Claudio, o Gianni, o chi per lui, fate un riepilogo di chi c'è in ruota, così evitiamo le confusioni e facciamo girare ordinatamente. Sì, Antonello Freccia, a questa parte. Io rimango un attimo in corrente, sto andando a dare foto sul telefonino, vai. C'è Eugenio, Vinito dovrebbe essere in corrente lo stesso, Gianni, Barracuda, Roberto, tu chi c'è? Gianni Profetta, non so, riprendi Gianni Profetta, ci sei ancora, dai. Querix Bonatino, per me sto rispondendo a una bassa. Una bassa sto rispondendo, riprendo subito. Che cos'è? Non ho sentito. Sì, anch'io rimango in X, ci sentiamo dopo ragazzi, dai, che c'è un po' di chiacchiere qua, voglio sentire. Riprendi Gianni Lumbroffetta. Eia, eccomi, tanta gente. Oggi il canale è abbastanza affollato, mi sembra che stava entrando, che è entrato Massimiliano. Avanti, buonasera. Positivo, io ho fatto freco poc'anzi, ma proprio poc'anzi, nessuno ha fatto entrare. Sono rimasto un po' in ascolto. Va bene, saluto a tutti comunque, buonasera. Raga, a me. Allora ti ho sentito là. Ah, ciao Massimiliano, scusa, non avevo sentito, dai, pensavo ci fossi già la prima, ti ho sentito solo nel passaggio, un attimino, dai, ben sentito. Ciao Massimiliano, un attimino qui, Rix per me. Va bene, non c'è problema, siamo qua, dai. Va bene, che bene, e anch'io voglio ascoltare un po' di notizie per vedere se domani dobbiamo lavorare o meno, tu, casino sta cosa. Addirittura, a Sassari, vero? Ma aspetta, ma voi vi hanno dato le precauzioni giuste per lavorare? Sì, la mascherina, con i guanti puoi tranquillamente lavorare, non, tanto tu sei sul camion, mica stai a contatto con la gente. Allora, buono gioco, mamma mia, fuori di malattia. A proposito delle mascherine, ma dove si trovano le mascherine? Che ho girato mezzo mondo fino a venerdì sera, nessuno ne aveva. Dice che c'è quello vicino a Coso, a Maurizio, con il negozio vende abbigliamento specifico per i professionisti, per le industrie, per le cose, ne aveva fino a venerdì. Sono andato io e poi l'ha finita. Le sta facendo in stoffa, ho sentito di questo, vero? Sì, quello naturalmente devono essere certificate, però considerando quelle che vendono i cinesi, parliamo con le economiche, che quelle è come che non le hanno, vanno bene solo per la polvere, quando ti metti a fare cemento, queste sicuramente in stoffa saranno un po' più filtrati, le particelle saranno più tenute. Poi naturalmente tutto il 90% delle mascherine che ci sono in circolazione non servono a niente, è inutile, perché il virus è talmente sottile e passa tranquillamente. E già lo so, infatti io lo so per lavoro, espressione di lavoro nostro, noi utilizziamo quelle con carbone attivo, durano 48 ore, poi ce le butti, ma costano 35 euro l'una. E anche se è relativamente valido il discorso, perché se non hai guanti protettivi, non hai la maschera integrale, ci vuole, passa comunque, ma ok, sei così sui gatto, io sto facendo l'ipotesi, diciamo, limite, perché il virus passa nei poli della pelle, talmente è impercettibile come dimensioni, però meglio di niente, dai. Ma hanno chiuso l'ospedale, scusate un attimo, hanno chiuso l'ospedale. La cardiologia, hanno detto che ci sono 80 contagiati, a seguito di quella morte di quel tipo di 81 anni, e stanno disinfettando tutto, la cardiologia. Così ho sentito, poi dell'ospedale non so. Allora, qui mi dice, l'ospedale si chiude, ingressi limitati allo stretto necessario. Faranno tutte le disinfettazioni, l'igienizzazione di tutto, speriamo bene, perché sono macelli grossi. Sa. Ma io sono due anni andato a travagliare, è un casino. Va bene, dai, che c'è ancora? Allora, Roberto, Eugenio, Lubrofetta, vai Lubrofetta, riprendi tu. Eia, eia, grazie del mic. Buonasera Roberto Quadrato, mi dai un controllino per favore, mi dici come ti sto arrivando, grazie. Allora, Radio 5 è molto amplificata, il segnale è quasi 9+20, ti ascolto perfettamente. Ma quando dici che è molto amplificata, è esagerato oppure va bene? No, va bene, di farlo confronto ad altre un pochettino più basse, comunque ultima va bene, il volume non è troppo alto, diciamo, io ho fatto il confronto rispetto agli altri, qualcuno è più basso. E tu come mi ascolti? Benissimo, perfetto, aspetta che mi devo pulire i bicetti, va a vedere il segnale, vai. 1, 2, 3, prova la radio, canale 10, Roberto Quadrato da questa parte, avanti. Sei 9, 10 più abbondante, radio 5. Ok, chi c'era? Gianni, ci c'è ancora Gianni doppio Sì, ci sono, poi c'è anche Antonello Diossi che è un parcheggio, ho fatto entrare. No, lo dimentichiamo, anche a lui. Che c'era, come si chiama, Lupo Biggio, anche se si sente molto basso, ogni tanto chiamiamolo perché magari ruota e non viene interpellato. Dai. Io sto facendo molto ascolto perché vedo che c'è molta gente e quindi voglio lasciare spazio un po' al mondo girare. Avanti, Antonello Diossi, dai, che poi fai girare. Antonello Barracuda sarebbe lui. Calma, Antonello Barracuda, sì. Ok, hai detto lupo grigio, così c'è anche questo lupo grigio, avanti se mi ascolti. Io non lo so, dove c'è il QRM a 7 oggi, non so per quale motivo, altissimo. Avanti se c'è Grodi, Antonio Grodi, se ci sei batti un conto. Sono tutti fuggiti, chi è che avanti? Tu, vai Neri, tu. Ciao Roberto, Natalino Alfa 1, buonasera. Salutoni a tutti. Ciao Natalino, ben sentito, una domanda al volo così non faccio monopolio. L'antenna tua sulla destra scendendo in questa Trinità si vede dalla strada. Ah, sta arrivando forte, ti ho visto l'altro giorno passando, ho detto probabilmente è Natalino. Ok, facciamo girare allora chi è rimasto, chi c'è? Massimiliano, se ci sei ancora avanti. Sì, sì, volevo rilanciare anche a Coso, che si sente un po' basso, dai, Antonio Grode. Oh, io l'ho chiamato, non ha risposto Antonio Grode. Ok, a tu ci sei, dice che era a telefono un attimino, comunque entrerà. Io l'ascoltavo Antonio Santiago 9. Ok, poi chi c'era, ricordatemi, c'era Barracuda, da Antonio Barracuda, vediamo se è rientrato, ci sei? Nulla. Claudio in Corre X, poi chi c'era Gianni in Corre X, poi chi c'è? Benito, ci sei ancora? No, Benito, scusa, Eugenio. Sono sul vento, Roger, organizzati con i calzari, quelli, come si chiama, quelli in plastica che usano negli ospedali, se devi fare un'operazione delicata. Diciamo, ce l'abbiamo, sono quasi finite, ce l'abbiamo giuste e giuste. Calzari già ne aveva, va, non so come manco Gaffinera, ne me ne avevano dato una marea, un amico veterinario, quelli in plastica, ce l'hai preso. Ho capito, però se tu entri dentro, poi le scarpe che c'hai dove le fai? Dove te le metti? Sempre coi guanti, tuggili. Vabbè, dai, io dico, io sono fatalista di natura, io dico, se devo morire, posso morire anche uscendo da casa vestito bene, tranquillo e sereno, mica ha gennato un qualcosa e buio, per cui prendiamoci quello che c'è, pensiamo a essere solo positivi e vivere la giornata. Io ragiono così, poi se il destino mio che domani non ci sono, può dire pazienza. Calzare bene o male te li puoi anche costruire, e quindi due punti a mondetta, una stagionata e te li puoi fare, per quello non è un problema. Però quando tu ti cambi e ti cambi nello spogliatoio, ti metti le scarpe per andare in macchina, poi quelle lì non entrare dentro casa con quelle te devi lasciare fuori lo stesso. Lo so, è un problema anche che tu fatto delle volte, ma per carità di Dio, guarda, non ce n'è, no. Vabbè, vediamo un po' chi è rimasto, vediamo se è rimasto Barracuda, ci sei? Barracuda non riprende, vai tu Gianni, doppio. Sei là, non sto facendo niente. C'è Natalino, avanti Natalino, racconta. Cosa racconto? Cosa devo raccontare? Grod è rientrato. Non lo so, io un secondino devo scendere nel piano di giù, che mi hanno chiamato. Ci sentiamo dopo se ci siete, ok? Se no buona serata a tutti. Sì, ciao Massimiliano, ben sentito. Ciao Massimiliano. Avanti Ivani. Chi è che ha messo musica? No, ma probabilmente al telefono, perché ha detto mi allontano un attimo dal telefono, poi l'ho rilanciato, non risponde, probabilmente è ancora lì. Ma dice con un'antenna di gomma leggera, infatti probabilmente è in situazioni precarie, dai, anche qua arriva la bomba, Antonio, c'è anche attrezzature discrete, parliamo. Ok, sento qualcuno che ha messo musica o per sbaglio, avanti chi è? Tu, riprendi Vanni se ci sei. Chi è arrivato? Io, Natalino, tu e basta, mi sa. Oggi è quel camper che hanno bruciato. Quel camper che hanno bruciato di chi è? Non è nuovo, è un Ducato, però anche se è vecchio sono sempre sul. Tu ce l'hai ancora il camper? Vabbè. Ci stai, vabbè, adesso io l'ho provato qualche settimana fa a fare un giretto, un fine settimana sono andato. Ma solo a farlo camminare, niente di più. No, vabbè, ho fatto un paio di domenica, ho fatto così un girettino, niente di più. Adesso ne sto allettendo uno piccolino, però piccolo a due posti. Eia, ma ne stiamo facendo diversi, perché c'è questo amico che lui li affitta, purtroppo adesso li è andato a male perché le hanno disdetto, non so quante prenotazioni c'aveva, questo ne ha 8 di questi fatti così a 2-3 posti, fatti da furgonati, diciamo, sono quelli Renault o Opel o Citroen, cioè questi qui lui, che c'ha quei kit di che metti il letto, un lavandinetto piccolino, una docetta, cosa del genere, che lo trasformi, cioè da come si chiama, da vettura a 9 posti lo trasformi in coso, in le, camperizzato, dai. E hanno disdetto tutto perché lui lavora molto con i tedeschi. E vabbè, diciamo, un camper fatto, i furgonati li paghi 50.000 euro, 60.000 euro, lui vale con meno, molto ma molto di meno. Esistono dei kit tedeschi che ti dà tutto, noi ne abbiamo fatto diversi, ci danno già pronti su misura, non devi fare molte modifiche, ci sono già gli arredamenti, tu devi fare più che altro impianto elettrico, idrico, eccetera. Dai furgonati, no, furgonati, guarda, ne è capitato uno, però è stato adattato, l'ho trovato alla Maddalena, bellino, non era nuovo, però bellino, 12.000 euro, ma un furgonato non lo paghi meno di 22-25.000 euro, quelli parlo furgonati omologati. Westfalia, a meno che non trovi roba vecchia vecchia, Westfalia gli devi partire da 18 in su se vuoi qualcosa da 2.000 in poi di anni, se vuoi roba vecchia degli anni 90 sì che li trovi, anche a 10.000, io parlo di mezzi abbastanza nuovi, dai, non più di 15 anni, 2005, così. Ho detto che non trapasso ce n'è quanti dei tuoi. Già lo sai, vai e comprali. Io non la compro perché non ho la passione, se no per tutto che comprarlo, ma non ho la passione del campo. È tutta una questione di passione, per piacere, dai. No, io vai a comprare, nel senso, siamo amici, già ci conosciamo per rapporti di lavoro, però non c'è mercato qua, se tu qua lo paghi 10 in continente lo paghi 7, il rapporto è questo, 30% in meno lo paghi lo stesso mese. Beh, come detto, anche le macchine sono così, in continente si sa che c'è più mercato, anche con gli apparecchi di radio, eccetera, eccetera, macchine, tu sei meglio di me, se sei più su a prezzo, per lo più. E anche il campo l'ho preso su io, le macchine ne ho preso più di una, anche per amici ne ho preso, no, non c'è confronto qua, perché lì girano i primari, qua vogliono 1.000 euro di guadagno, di lì si accontentano dei 200 euro. Brecchi dalla borgata, e per gli altri, cosa vuol dire a volte brecchi? Sono obbligati insomma, ciao Luigi, meno male oggi non ti sento a fischi come ieri, uomo di ciao Roberto, qua l'altro, e ciao Gianni. Ah, Gianni lo perfetto, anche mi sembra che sia, anche Natalino, saluto a tutti. Giulio dalla Borgata, avanti, avanti Roberto. Ehi, beh Giulio, tanto tempo, dai, tutto bene, dai, ben sentito. Sì, tutto bene, Roberto. E quel che non è bene cerchiamo di metterlo a posto, se possibile. E se lo fa niente, e cosa ci vuoi fare? Vabbè, qui c'è musica dappertutto, qui in zona, tutti cantando, stanno in questa strada. Musica a destra, musica a sinistra, tutta lì, meglio così. Gente allegra, Dio li aiuta. Avanti, l'ombra fetta. Eia, eia. Giulio, sei entrato... se riuscite a entrare poco fa era da burotto, cazzo, c'era un affollamento, cazzo. Buonasera, ben sentito. No, vabbè, io ero qua, stavo ascoltando un po' le chiacchiere, dai, quindi niente, dai. Nel frattempo butto un occhio anche al computer, tanto le cose da fare sono sempre le stesse. Ok, dai, rilancio il microfono, Eugenio, avanti Eugenio. Io, no, naturalmente. Io in campeggio, però non sono tipo che va in campeggio col camper. Io vado a girare, non so se tu sei tipo stabile, che ti fermi, io mi sposto parecchio. Ah no, non parecchio in quel senso, nel senso che io quando vado in giro qua in Sardegna, una volta solo sono andato in Corsica, diciamo non è che ci abbia tanto tempo per utilizzarlo, io so solo le ferie, 15 giorni e basta. Vado in giro per dire, oggi vado, ti posso dire, a Dolgare, poi mi sposto, vado e proseguo ad Arba, cazzo. Oppure vado, ti posso dire, a in giù, però non vado nel camping a meno che non trovo posto, come è capitato quest'estate che non c'era posto per dormire, alla fine sono costretto a fare 2 giorni in campeggio, in camping. E camper c'è, no, a me è un camper vecchio, Enag, vecchissimo, anche se in perfettissime condizioni è come che sia nuovo, tutto efficientissimo, motore eccezionale, è un camper vecchio. Adesso me ne sto facendo un altro su Ducato, su furgonato, quello lo uso piccolino, nel senso che riesco ad andare da tutte le parti, perché questo è un mezzo speciale, si è omologato come mezzo speciale, per cui non ho problemi di andare da nessuna parte, più che altro l'ho preso per questo. Ciao Giulio, ho preso tutta la cartella. Lo sai cos'è, perché stanno cantando, per togliere tutto lo stress che abbiamo dentro, è un modo come un altro per rispettare quello che abbiamo all'interno. Lo so già, sì, beh, certo, per dimenticarti un po' il marmore, perché ti polmone ce n'è tanta in Italia, e non solo in Italia, anche nel mondo intero. Per cui è meglio che la gente viva sempre con uno stato d'animo accettabile, quello è importantissimo. Va bene, va bene. Intanto oggi a testa è già il secondo che dice, speriamo che non ce ne siano altri. Speriamo bene, chi lo sa. Stavo seguendo un po' di cose su internet anche a livello internazionale, e a quanto pare c'è un sacco di gente dello sport, dello spettacolo soprattutto, e anche insomma gente a un certo livello, adesso non so se è attendibile, comunque ho visto un paio di siti, a quanto pare dovrebbe essere vero che anche la regina Elisabetta II è stata, insomma, è stata tra virgolette portata via. Poi c'è la moglie del premier spagnolo, anche lei infetta. Poi chi era? Ah, il primo ministro canadese, lo stesso, è pizzicato. Poi tra le celebrità c'è Tom Hanks, e poi Celine Dion, Madonna, un sacco di altra gente è pizzicata fuori. Quindi, come dire, la cosa sta pizzicando anche un certo tipo di star system, dai. Ciao, ciao, G. No, non sono immuni con la Mix, non è che siano speciali. A parte. Ciao, G, alle prossime, ciao, ciao. Ok, ciao, G, ci sentiamo domani, allora, alle prossime. Avanti con Virginia. Ciao Virginia, dai, non te la prendere, non ti piglia a mari. Tranquillo, vai. No, vai tranquillo e sereno, come stava dicendo Roberto poco fa, no. Vai tranquillo, dai. Dai, ci sentiamo quanto prima. Ok, dai, avanti giù. Ok, va bene. Purtroppo è un momento un pochino pesante, difficile da sopportare, però d'altronde la realtà è quella, bisogna cercare di andare avanti. Io ho detto un mese, io stessi cercando, un mese e mezzo, sono uscito solo in determinati giorni, cioè di giovedì quando andavo a fare la terapia, forse del resto sempre a casa. Una di un'influenza, e con la qualcosa con la tosse, una di un raffreddore, una di addone da lecce, incredibile. Comunque, sono passato, grazie a Dio, per cui va bene, lo stesso, vuol dire che doveva essere così. Va bene, avanti, sono bene. Ehi, cos'è terapia? Perché l'avete successo oggi? Tu sei assente da un po' di tempo, dunque non lo sapete, ho avuto delle operazioni un po' pesante, per cui, ma grazie a Dio sembra che ho risolto un problema, però devo rimanere sempre sotto controllo e periodicamente dovrò fare dei controlli. Dunque, adesso mi tocca il 2 di aprile. Problemi ho robe. Però grazie a Dio sono riuscito, però almeno per il momento non si vede più niente. No, non sapevo niente, mi dispiace, io dai, vedrai che si risolve tutto, dai, cerchiamo di essere positivi tutti quanti, dai. Ok, parliamo male, se abbiamo altri argomenti meno tristi, dai, cerchiamo di essere un pochettino più allegri, visto che considerando che c'è qualcuno in più alla radio, perché ultimamente, vabbè, io non sto pensando da tanto tempo, ma vedo si sta ripopolando, ho visto anche quel programma, quell'applicazione poco fa, un'oretta fa, ho ascoltato quello CB Talk, era pieno di gente, ma decine e decine di persone da tutto Italia e anche da tutto il mondo, perché c'erano anche altri, io ho registrati anche gli altri canali delle altre nazioni, ho visto c'era un sacco di gente. Poi ho visto stanno facendo dei contest, stanno chiedendo in certi orari anche dall'altra Italia a provare in banda laterale per vedere. Diciamo, nel complesso, quando siamo in casa, noi piccoli cibi, diciamo, un po' di compagnia ce la facciamo. Brutto è per le persone che stanno solo in casa, gli anziani che non hanno nessuno. nessuno, non possono neanche andare a prendersi la spesa perché si trovano da soli. Ok, riprendi il mic, anzi facciamo prima la chiamata se è rientrato Grode. Avanti Grode, se ci sei, se no la riprendi tu, Vanni, avanti, vai Vanni. Vabbè, a me stai dicendo? No, ho fatto, non so se hai sentito il discorso, ho detto diamo un attimo di bianco, ho chiamato Antonio Grode, ma non ha risposto, ho detto continua tu la ruota e fai girare. Poi non so se è rientrato Barracuda, aspetta, chiamiamolo un attimino Barracuda, se c'è, se no riprendi tu. Avanti Antonio Barracuda. C'è questo basso basso che io non lo sento, sento solo bisbigliare. L'ascolti tu Giulio? No, io non l'ascolto, non ascolto nessuno di modulatore basso. Adesso non sapesserò. Va bene. Poi chi c'è l'altro, io ho fatto qualche minuto di ascolto, ma tutte quelle che ho sentito sono usato. Adesso non so se c'era qualche altro che io ancora non ho sentito, per cui eventualmente si ritenga salutato. Ehi, ehi, ma vabbè, ma Antonio Grode sta facendo col portatile, però non ho capito da che zona stava modulando. Antonio Grode non è Antonio, Antonello è un'altra persona, Antonello Pompugno è su Serrasecca, che io non l'ho sentito, dice c'era anche lui, però non ho avuto modo di sentirlo. Grode credo che sia zona giù, se non sbaglio, zona penso via Budapest, quelle zone lì, credo, però non so se abiti ancora di lì. E lui arrivava fortissimo, tra l'altro anche radioattore, c'aveva delle apparecchi di un certo livello, adesso sta utilizzando non un portatile, ho capito un apparecchietto, un portatile, un coso, un veicolare almeno, ho capito, con un'antenna di fortuna. Ho capito, sì, vabbè, mi sono confuso, di Antonello ce ne sono diversi, di Gianni ce ne siamo due, quindi ci sono poi i doppioni tra virgolette. Ho visto che piano piano poi si sono spostati a fare altro, quindi siamo solo noi per adesso, poi non so, sicuramente c'è qualcuno che all'ascolto. Rilancio il microfono a Gianni, avanti. È per questo che ci sono i nominativi, così non si fa confusione. Vabbè, io ho ricevuto anche, un'apertura registrazione dove c'era questa infermiera che diceva appunto che c'era stata questa contaminazione proprio cardiologia, che non si sa da dove sia provenuta, è morto quest'uomo, eccetera, eccetera. Questo me l'hanno mandata, beh, io non so se è veritiera la cosa, non lo so, però mi sembra una cosa già passata questa, cioè dice che ce n'è un secondo che è morto. Adesso dobbiamo stare attenti a fake news, ne dicono di tutti i colori, molte cose, se non c'è l'ufficialità dobbiamo prenderle con le pinze. Adesso questa cardiologia l'hanno pubblicata sulla Nuova Sardegna e penso che sia notizia vera, anche se qualche volta anche la Nuova Sardegna scrive e dice fesserie, però mi immagino che sia una notizia veritiera. Ah, poi si dice che c'è del secondo, no, questo non l'ho letto, vabbè, non ho neanche sentito. Adesso è una giornata, quello di 81 anni, che non so chi sia, però era già malato, aveva già dei problemi, per quanto ho capito. Chi lo conosce? Vabbè, queste persone deboli che prende, capito? Io sono stato operato da poco, quindi non sono in forte. Infatti non sto uscendo, vabbè, posso anche camminare poco, ma non sono riuscito ugualmente perché se mi prende così debole, bisogna stare attenti già, chiunque. Fortunatamente, almeno così si dice, quelli più giovani, io sono più preoccupato per i miei figli, per le mie figlie, noi già un po' di vita ce la siamo fatta, il problema se becca uno di loro, cazzo, quello che mi preoccupa. Vabbè, ma i ragazzi un po' meno, anche se c'è stato qualche caso di gente, di bambini, ma proprio in pochi casi, probabilmente li ha trovati indeboliti o roba del genere, perché la maggior parte delle persone che muoiono sono persone che hanno dei problemi di malattie croniche, oppure sono deboli da qualche cosa, da qualche malattia che hanno avuto, eccetera, eccetera. E soprattutto quando sono avanti con l'età. Già lo so, purtroppo, adesso faccio un esempio, non c'entra niente, avanti ieri è morto mio suocero, non siamo neanche potuto andare a visitarlo, non è niente, perché l'hanno preso, una persona sola hanno fatto entrare, la moglie e una figlia, e adesso hanno portato al cimitero dove tengono le cose, nessuno si può avvicinare, niente, non ha potuto fare niente. Infatti stavo proprio pensando a quello, quando muore una persona nemmeno il funerale è possibile. Non hanno fatto niente, cioè non si poteva nessuno avvicinare, è morto in casa di infarto, si presume di infarto, perché lui c'ha qualche problemino di cuore, il giorno prima c'aveva questo un po' di mal di pancia, la mattina la moglie non lo sentiva, è sceso un attimino giù, è risalita e l'ha visto che era in condizioni critiche, e poi purtroppo non c'è stato modo di fare niente, di intervenire. Quando è arrivata l'ambulanza era già morto, però la cosa brutta è che cioè, uno non può neanche andare a un funerale, non può fare niente per questa situazione qua, e devi, cioè, te lo trovi direttamente dentro la bara, neanche la camera mortuaria, niente, non hanno fatto niente, hanno portato giù al cimitero in attesa che si sviluppino delle situazioni migliori. Bisogna stare lontano da questa cosa, lungi dal mio corpo. Ma la cosa più strana, io dico, se esistesse un sistema per dire tu come ti misuri la febbre con quelle termocamere, tu ti avvicini, ti misuri la febbre e dici sì, tu c'hai il coronavirus, almeno sei già predisposto e sei già preavvisato, dai. Purtroppo io magari ce lo posso avere, ce lo puoi avere tu, ce lo può avere chiunque, noi non sappiamo niente perché non abbiamo sintomi, come è successo a quel giocatore della Juve, Rugani, la moglie, sono tutti e due asintomatici, li hanno fatti vedere, ho visto loro parlando con i fan, eccetera, eccetera, detto, noi non abbiamo niente, non abbiamo né febbre né niente, ti hanno fatto il tampone e tutti e due hanno il coronavirus. Purtroppo è la bruttezza di questa malattia, che ci sono delle persone che magari ce l'hanno dentro e ne contagiano altri 10.000 e non sanno niente di averlo. Sì, sono solo portato pure, è un casino, quando è così che non c'è i sintomi, come fai a capire? Io per dire, c'è mio figlio che ha la tosse, subito già lo so, io ti auguro con tutto il cuore che non c'abbia niente, però sono molto vaghe queste cose, la certezza è trovare il tampone. Il tampone normalmente ci vogliono 6 ore per avere la sicurezza dell'esito, anche se dice c'è questo nuovo israeliano che basta un'ora, però e dove sono i tamponi? Non ne abbiamo. Non so se hai sentito, le mascherine che erano destinate all'Italia, ci sono stati altri paesi che praticamente le hanno bloccate e ce le hanno prese loro. Infatti Maio ha detto che praticamente verranno denunciati paesi che si sono appropriati delle mascherine che dovevano arrivare in Italia. Non so se si... Vabbè, lì c'è tutta una storia particolare, il più grande produttore, diciamo, di quelli occidentali, dei paesi occidentali, è la 3M americana, che c'è il più grande stabilimento in Germania, l'Italia aveva ordinato un certo numero di milioni di esemplari, purtroppo la Germania ha detto no, perché prima ci devono pensare per le loro necessità, adesso è entrata la Comunità Europea e ha detto bisogna liberalizzare il mercato, perché prima diamo la precedenza alle nazioni che ne hanno necessità, tipo l'Italia, e subito dopo adesso c'è anche la Spagna, speriamo bene, perché una ditta italiana che ne produce 500.000 al giorno dice ne sta facendo un pochettino, però il problema è che non le distribuisco. Ma hai sentito la fabbrica di tessuti eccetera eccetera che produce pantaloni, questa roba qua, che come hai sentito che c'è bisogno di mascherine, hanno mollato la loro produzione, stanno facendo mascherine, naturalmente non so se siano diciamo mascherine a livello stanno costruendo queste mascherine, le stanno donando gratis, ne hanno donato non so quante, le cui il figlio stanno facendo solo mascherine. Ok, l'ho sentito, dai, stiamo monopolizzando, però adesso facciamo riprendere a Giulio che poi lo farà girare, vediamo se è rientrato qualcuno avanti. Giulio, scusa per l'intromissione. Niente, ascolta, è uguale. Ciao, ma voi per quello, fate così, se vi occorre una mascherina, prendete un reggiseno di vostra moglie, siccome sono due, e le fa per due volte, per cui ci mettete uno spaghettino, un ovulaccio e la mettete la mascherina. Magari fosse così semplice. Tu perfetto, cosa ne dici tu? Buona idea, buona intuizione Giulio, mi sembra un'idea geniale. Il problema è che bisogna chiedere a loro se sono concordi a questa cosa, a rinunciare a certe cose, però è geniale, dai, è un'idea, una buona idea. Ma devono avere almeno una quarta, se no con la prima misura non ti copri nulla. Se no ti fai come quel tipo, vai al negozio di autoricambio e ti prendi il filtro dell'aria di una macchina, di una Panda, e ti metti gli elastici. Io c'ho un piccolo problema, che non c'ho voce, quindi non posso fare niente. Oppure come quello, ha pegato un capo di sviluppo, ne ha tolto una corsa e ci ha fatto la mascherina. Ciao Bianco, per me un attimo. Oh yeah! A buon gusto. Le mascherine devono essere omologate, devono essere di un certo tipo per filtrare come si deve. Ci sono dei marchi particolari, le altre sono tutte mascherine che non valgono nulla. Letto e riletto su internet, eccetera, eccetera. Dove ci sono dottori che informano, praticamente sono due i tipi di mascherine, quelle proprio che filtrano bene. A proposito, adesso non sono ricordato, ma io avevo sentito, anche la Tarino avevo sentito inizialmente quando stavo facendo ascolto per vedere chi c'era in frequenza, però non l'abbiamo più chiamato. Io non so se la Tarino è rimasto in ascolto o seppure siamo noi che ce lo siamo dimenticati. Natalino, ci sei? Natalino, ci sei? Batti un colo. Oh, la terza è andata a mangiare. Bisogna fare come si faceva una volta, voi lo sapete meglio di me, un appunto, un blocchettino notte, se si scrivono i nomi delle persone e si fa il giro, così non si sbaglia. Ma perché è un po' male, no? Perché sono pure in campo e scrivere un po' male. Infatti poco fa me ne sono anche andato fuori perché c'era troppa gente, stavano calpestando lo volato, non capiva più nulla. Quando vedo un certino non riesco più a stare un po'. Ma poi ce n'era uno già, avete chiamato uno che io lo sentivo basso basso, come si chiamava? Lupo Miglio, io l'ho chiamato per diverse volte e non ha risposto. Probabilmente si è demoralizzato perché lui ha un montato e a volte si fa una passeggiatina verso il via di Trieste, da lì arriva a Monte, arriva bene da tutte le parti, poi va bene, l'ate 12 Monte e quella di lì arriva a Monte 9, 9, 5. Però se lo fa la casa sua, che è via Principessa Iolanda, angolo via le Trieste, lì non riesce a prendere, perché c'è tutti i palazzi di fronte, dal terrazzo di casa sua che è al secondo piano, che pare non riesce a prendere nulla, capito? Purtroppo lui non si vuole mettere in stazione fissa perché ha paura di quello che gli dicono quelli del palazzo, eccetera, eccetera, quindi si accontenta di questo portatile, si è comprato la batteria da usare di quelle a spalla e usa così il portatile. Ma forse sto dicendo un'altra persona, perché lui mi ha detto io sto modulando da Sassari in barra mobile, io lo sentivo basso, cioè segnale era in mezzo al QRM, Santiago 7 arrivava, perché c'era il QRM alto, però Tino l'ascoltava bene. Antonio Freccia era qui. Chi era? Antonio Freccia. E da dove stava modulando qua? Oh, da Sassari ha detto, ma non so da dove, penso che all'Italia è morto. E arrivava così basso, strano, cacchi, arrivano quelli di Porto Torres, furti qua. Non lo so, dipende sempre dall'impianto che c'hai in macchina. Io mi facevo sentire a tutte le parti, ma non ce l'ho preso pure. Secondo che impianto vai, non serve a nulla, secondo che anche a me. Come l'impianto di casa, no? Secondo com'è? Secondo l'antenna che hai, non ti sento, secondo l'antenna che ti sento. Giulio, ripeto. E chi è questo Antonio Freccia? Io non l'ho mai sentito. Giovanni Freccia, ma non Antonio Freccia, non lo so. Vabbè, se a voi li fate sentire già siamo qua. A me a proposito, come vi sentite, non lo riterò, dai. Avanti, un perfetto. Io ti ascolto molto bene, come al solito segnale più che ottimo e radio ottima, quindi qua, qua niente da dire. Il più piccolino sono io, dai. E vabbè, e allora sono contento, dai. Vuol dire che è regolato bene il microfono, molto bene. E vado a voi di Siviglia, poi c'è regolato. Tu perfetta, Gianni, Roberto, io e chi c'è altro? Boh. Sembra non c'è altro nessuno. Vabbè, comunque riprendi tu Gianni, vai. Gianni doppio tu. Facciamo una cosa, dai, vediamo un po'. Se c'è qualcuno che deve entrare, perché magari ci siamo dimenticati qualcuno, dai, avanti. Sulla frequenza 27075 canale 10, se c'è qualcuno. Ecco, adesso siamo tranquilli. Sì, siamo tranquilli per quanto riguarda le persone che magari sono in ascolto e non riuscivano a entrare. Vabbè, come mai domani mi stai arrivando più basso, molto più basso il segnale, stai usando un barattino normalissimo. Ma di radio di segnale? Io diciamo è... No, Roberto ha detto, Roberto, mi sta uscendo col segnale molto più basso del solito. Non lo so io, vediamo, più o meno uguale, io adesso non so, aspetta, vediamo le stazionarie, come sono, no, sono basse, no, ma più o meno non è che abbia toccato la potenza, credo che sia più o meno come l'altra volta, forse la radio sarà diversa perché poco fa mi hanno detto che ero un po' alto, ero su un altro canale, stavo facendo prove, mi ha detto, com'è la radio che mi interessa più di tutto? La radio già è buona, non è altissima, però è buona, va bene così. Ma è il segnale che a terra è basso, 9 più 5 appena. E tu mi dovresti arrivare il 9.15, 9.18 o cose del genere qua. Alle volte anche 9.20. Boh, aspetta, la radio me l'hanno fatta abbassare, adesso la provo a fare un peluzzino, guarda se così va meglio, potenza non ne tocco perché dovrebbe andar bene così più o meno a occhio come l'altra volta. No, di potenza sei buono, Robert, sei 9.25. E la radio? Perché mi ha detto che ero troppo alto uno poco fa, nel canale 22, 23, adesso mi ricordo. La radio va benissimo, lascia tutto così perché per me va bene, datemi bene anche il segnale qua. Forse da Giulio arrivi più basso, non lo so, forse si vedono meno le antenne, non lo so, però qua arrivi abbastanza bene. Giulio, io a te ti ascolto 9 più 15, la radio è perfetta. Non mi ascolti, Roberto? Sì, tu sei quasi 9 più 20. Riprendi Giulio un attimo, fa un passaggio. Ok, Roberto. No, io, vabbè, d'accordo. Io di solito ti ho sempre sentito, non mai più basso di 9 più 15. Anche con l'antenna autocostruita che ho adesso io. Perché è sempre stato così. Adesso mi sei arrivato appena 9 più 5 qua da me. Questo è lo Smith, questo è giusto, per cui non so cosa dirti. Però poi quando l'antenna era nella posizione sua al posto originale era anche 9 più 20. Però diciamo, l'ultima volta che ti ho sentito, con l'antenna che ho adesso in questo momento era sempre intorno ai 9.15. Non so cosa dire. Chi è entrato? Mi sembra che è entrata anche un'altra persona. Chi era? Tino era quello? No, forse mi sto sbagliando io. Vabbè, dai, riprendi, lo prefetto. Tino mi sembra che sia con qualcun altro, adesso mi ricordo, sono sul 20 che stavano facendo le prove. Sì, vabbè, quello già l'ho sentito un po' calci, era con cosa. Vabbè, dai, già, non mi ricordo come si chiama, ma già... Già sono venuto qui, quello del corso, vicino al fornitore, dai, la bambina o quello che si chiama. Va bene, dai, non fa niente. Tiriamo a campare. Avanti Gianni, dobbiamo... Stai dicendo benissimo per caso. Mi sfuggi va dove in questo momento, siccome sono un sacco di tempo che non avevo più sentito, anche perché era sparito da molto, da almeno un anno, per cui mi ero anche dimenticato del nome. Va bene, sì, intendiamo lui, eravamo noi due. Va bene, ma niente, dai. Avanti Roberto. Io no, sto guardando qua, è tutto normale, le stazionarie sono basse, sono 1-1, cioè non ho avuto nessun cosa, non lo so, sinceramente non so cosa dirti, sono come le stesse condizioni, anche la tensione 16,67 volt, c'ho il digitale qua, oltre che l'alimentatore, con l'alimentatore ne metto uno sempre davanti per evitare i problemi, per avere qualunque sicurezza, però vedo che tutto a posto qua, i picchi sono positivi, non so che dirti, da parte mia il segnale, la potenza è sempre quella, non tocco mai niente, solo il mic, il livello del mic gain mi hanno detto era un po' alto, l'ho abbassato, invece mi avete detto che va bene, dai. Ok, vediamo un pochettino, sentivo uno piccolino sotto, un attimino di bianco e vediamo se è un segnale spurio o se per caso è qualcuno che c'è sotto, avanti, che vuole entrare sul 10, si muove lo speaker, comunque non capisco se c'è qualcuno o se è un disturbo da lontano, avanti Vanni, io ti chiamo Vanni, non so se ti devo chiamare Vanni o Giovanni, dimmi tu o Gianni. Chiamami Vanni così adesso ci differenziamo da Tokyo Room. No vabbè, io sento QRM ma no, da qua da questa parte non ho ho sentito nessuno. Stasera verso le 4:05 ho provato lì spazzolando sulla 5, sentivo gente da lontano, però poi niente, insomma. E quindi ho spento tutto e ho riacceso un'ora e mezzo fa. E niente, qui va tutto bene, l'antenna mi sta funzionando bene, quindi va bene così, avanti Roberto. E a tutti sta utilizzando anche apparato, se si può dire naturalmente. Assolutamente sì. Guarda, io ho un Super Jopix 2000 che è molto simile alla Superstar 3009. È in concessione da Marco Condor, cioè era fermo nell'armadio, me l'ha passato e sto utilizzando questo con un microfono ZG M95 grigio col tasto giallo, non so se lo conosci. Sì, ce l'ho io quello, il M95, quello lì addirittura ce l'ho, mi pare, senza dirti in balle, almeno 8 anni con la stessa batteria attaccata a un Alan 48 e sta sempre andando, funziona sempre con la batteria. Io non ho capito se c'ha i pannelli solari con la batteria o qualcosa, perché è impossibile una batteria che duri così tanti anni. Sì, gli ho fatto la modifica, gli spinotti, insomma. La radio è questa, c'ho una boomerang da 3 metri piazzata sul tetto e niente, con il radialino è puntato verso nord, prima ce l'avevo puntato puntata più verso nord-ovest, zona produttore, adesso l'ho girato e niente, insomma, va bene così, dai, sta andando tutto bene, quindi mezzo gai, dai. No, ti ascolto perfettamente, radio molto forte, bella, chiara, segnale come quello di Giulio, 9+15 con i picchi positivi, Gianni è un po' più forte di voi. Ok, c'era Natalino, vediamo se è ritornato, se... Ok, avanti Natalino. Prendo io, Roberto. Tu ti ricordi il segnale che ti avevamo prima? Già, tu certe volte arrivavi un pochettino più forte, un po' di meno, ma più o meno era intorno a 9+20, qualche picco molte volte, magari quando accendevi qualcosa salivi un po' di più, ma siamo nella norma. Perché io adesso ho cambiato antenna, non ho più quell'antenna lì, adesso c'ho un'altra antenna. No, più o meno uguale. A me adesso sto leggendo, mi è arrivato un messaggio qua. Stasera alle 21 si spengono tutte le luci di casa e fuori accendete la luce del telefonino rivolta verso l'alto, così il satellite farà vedere l'Italia tutta illuminata. Passate il messaggio, ogni tanto c'è una nuova. Non sono quelle cose che fanno passare con la fissuria. Io comunque ho la mia maschera adesso. No, ma non è più tu, dove l'ho amato, ma già. Io avevo amato la 5, poi ha cominciato prima a essere solariale, poi l'altro, però mi si muove per 2 volte, gli ho messo anche la letta per non rompere, se ne ricordo anche per il cavallo senza, alla fine ho funzionato per un'antenna senza radiale. No, sta andando alla grande, uguale. Differenze sostanziali di segnale non è vero, diciamo, il guadagno più o meno è simile da parte mia. Sempre che sei nella stessa posizione, mi immagino. Sì, tolta uno da un po' la messa l'altra. Cambiato tutto, palo, tirati, tutto. Stava sì, ah no, sta andando bene, poi a voglia. Se ne hanno più 20 ce n'è per i pulci. Qua sino a 9 i segnali, oltre ai 9 sono tutto quello che c'è in più e in più, perché qua da 9 il segnale è perfetto, radio 5 arriva. Poi tutto quello che c'è in più di segnale è oltre la norma. Beh certo, no, ma siccome ho avuto dei miglioramenti in 80, completamente, non so se tu l'hanno così, la prima. Un tipo verticale. Siate bianco per me una. Vabbè, ripetiti. Ok. Ha fatto bianco per un attimo. Vedi che sta suonando il telefono, magari. Probabilmente così. Avanti, Gianni, non aspetta. Bascia appena giù. Ti ho parlato di radio? Sì, sei quasi allo strappo. Ciao a tutti di nuovo, sono entrato adesso a portare il campo. Ciao, brava. Ecco qua. Adesso dovrebbe andare bene. Oh, qua, ciao. Perfetto, falli a voto. Ciao, buonasera a tutti. Non ne bocio più, per carità, già. Oh, yeah. E adesso mi è arrivato, un po' fa mi è arrivato questo telefono e questa ragazza, dice ragazzi, sono un'infermiera, praticamente tutto il reparto di cardiologia persona, adesso dice che sono due, io so, però te c'ho i nipoti, tutti e due l'alghero, una marina, una civile, ho detto zio stai attento perché per carità guarda, sono un po' più, il problema è stare a casa, io non ci sono abituato, non c'è niente da fare, mi sto esaurendo davvero, credetemi, perché non è che c'è, ho fatto qualche cosettina a casa, giusto così, però no, non si può, c'ho un sacco di cose da fare, un sacco di cose, speriamo non vada ai casini, perché l'ho già detto, io sto lavorando per i fatti miei e ho vestito dei quattrini, quindi se no guarda un disastro, vabbè dai, riprendi Gianni il profeta. Ehi, ciao Claudio, buonasera, eri a portare il cane, ma nonostante, cioè, voglio dire, con le regole vigenti in corso c'era gente in giro portando cane o altre cose. Il cane è autorizzato, il cane può uscire, ok, non si deve allontanare, naturalmente io non lo porto neanche fuori, ce n'è qua di spazio, c'è tutto il giardino, sono 200 posti alto, quindi tutto il giardino, perciò sto dentro, quindi non è che vado fuori, però anche nella strada il cane si può portare, chi ha il cane è autorizzato, può uscire, è autorizzato a portare il cane, come fa il cane per uscire, se no andiamo tutti a casa dello sindaco e li portiamo a casa del sindaco i cani, non ho capito, già è, tenere un cane oggi è un lusso, è un problema, in più non ci permettono manco di fare due passi, a questi cani cosa facciamo? Portiamo tutti al canile fino a quando non passa il coronavirus. No, si può uscire. Il problema sono altri, Gianni. I problemi sono che bisogna rimanere a casa. Io ho delle cose da fare, mia figlia soprattutto. E, insomma, Gianni Giorgio lo sa, non è che devo fare molti discorsi, quindi siamo fermi, chiamati a casa, non possiamo fare niente, è tutto bloccato, e così. No. Giulio, come lo stai trascorrendo il tempo? Sto con un mese e mezzo in casa io, senza uscire, uscivo solo il giovedì a fare la terapia, mi faccio un po' ammaldolicchio, sembra che sarebbe un altro tedesco, se può fare. Un po' con la tosse, un po' con la pressione, cosa vuoi dire? Adesso mi sembra che sia passato tutto, speriamo bene di non riprenderlo, e purtroppo bisogna rimanere a casa, è vero. Poi il fatto del cane mi ha fatto vivere quello un tipo di portatore, che lui il cane non aveva, però aveva voglia di uscire, e aveva il cane di peluche, ha pagato il cane di peluche, ha messo un vistaggio e è andato in strada. E l'hanno messo su YouTube, incredibile, alla volta la gente inventa delle cose che fanno dire. Avanti, non vuole fare. Sono rientrato io. Ehi, aia, ok, vabbè. Sì, per Claudio, no, conosco, mi sono letto la normativa, quindi no, era giusto per vedere se dalle tue parti c'erano altri che portavano il cane fuori, era giusto per sapere quello, ero curioso, perché qua lo stesso ogni tanto sotto casa sono delle persone che qua al viale ogni tanto escono e portano il cane. Qua sotto casa poco fa c'era una coppetta che si stava baciando. Ricordate che quelli che c'hanno il cane puliscono, anche la casa nella via mia è tutto pieno di cacca di cane, è una cosa spaventosa. Perché il cane non si porta nei marciapiedi, si porta nel prato, e poi le feci, anche se tu non le pulisci, diventano con cibo e basta. Ma se tu lo porti nel marciapiede a fare il mio non è fare meno nel marciapiede, vuole andare nell'erba. Li stiamo tentando, cazzo. Prima c'era un tipo che vabbè adesso si è trasferito e non ha più fatto, ma uno che conosco gli ha fatto a mangiare, la metra, il piscio, gli ha dato una bella sussa, ha detto brutto porcaccione. Però purtroppo, cazzo, lo troviamo ogni mattina, o la mattina, o tarda mattinata, sempre il servizietto vicino. Adesso lo stiamo tentando, cazzo. Perché pensiamo c'è un ragazzotto, riesci a vedere, perché non è possibile, c'è il cane, però la cacca raccogliuta l'hai portata a casa tua. Quella maleducazione, Roberto, io con Gianni lo stesso ce l'ho 8 anni il cane, non mai sporcato un bacio al piede, anche perché da piccolino l'ho abituato, lo portavo qua dentro il mio giardino, niente. Il primo periodo infatti anche io già la raccoglievo al giardino, la buttavo nella spazzatura, in cassonetta. E invece poi parlando proprio col giardiniere, quello che fa le pulizie, ho detto troverai ogni tanto, no diciamo non fa assolutamente niente, anzi lasciatelo perché quando secca, soprattutto nelle piante vicino agli alberi è solo concime, non fa niente. Brutto è trovato il marciapiede, se tu vedi il marciapiede che c'è di via l'Amalfa fa schifo, sai quante volte gli ho detto allo spazzino, all'operatore chirurgico per chiamarlo con nome tecnico, e gli ho detto che tutte le mattine ne togli una pala intera, e quelli sono maleducati, assolutamente, perché il cane deve essere portato o messo in condizioni di non sporcare niente, quindi è così. Sì, giù, l'ho visto, perché l'unica chance per uscire senza autorizzazione è il cane, chiaramente non ti devi allontanare molto, devi rimanere nel tuo circondario, però per uscire col cane è autorizzato, infatti quando voglio farmi una passeggiatina fuori, prima le faccio fare i bisogni dentro, arrivo sino alla chiesa, all'edicola, lì, capito, e poi torno indietro, proprio perché ho il cane, quindi non c'è nessun problema, va bene. Caro Gianni Rubrofetta, e tu stai contando il passaggio, adesso è entrato in funzione ovviamente il trenino, quindi tu conti magari i passeggeri, passi il tempo così. Cazzo, sembra presente i giocattoli da bambini, no? Col trenino elettrico, chissà cosa gira, rasura, è biuto, cioè, è vuoto, anche i tram che passano sotto casa. No, vabbè, io adesso ne sto approfittando. C'è un po' di cianfrusaglie qua a casa, sto facendo un po' di pulizie. C'è un mobile, praticamente sono pieno di vecchie riviste di motociclismo, motosprint, motociclismo d'epoca, c'è un sacco di riviste da metà anni 90 sino al 2005, ho messo su Facebook se c'era qualcuno interessato, sai, qualche appassionato che magari colleziona. Non mi ha risposto nessuno, io adesso domani mattina inizio a fare un po' di viaggi e tira un po' tutto. Tu immaginati, ti faccio ridere, adesso ride Giulio e Roberto si incazza. Tu immaginati quel vento brutto che ha fatto, bruttissimo, brutto vento, era già una decina di giorni che si era attaccato un tirante del sistema delle direttive, sto parlando delle direttive, era 3 elementi che ho pagato quasi 1.000 euro senza rotore. E niente, il giorno che ho fatto quel vento fortissimo sono sceso a portare il cane e non vedevo la punta dell'antenna, ho detto ma un elemento l'ha portato via, però ho controllato in terra, è un elemento da 8,50 m, quasi 9 metri, con le bobine attaccate. E invece l'ha praticamente sganciato dal cavallotto, al vento che c'era, tira e ritira, ed è rotolato nel tetto. Sono salito su, cioè, le due bobine rotte, le punte tutte piegate, gli ho detto, tu sei l'ubrimo, ginocchio, tra, l'ha giovato due tappezzi e messo dentro un bidone. Il giorno che ha fatto quel tempo bello, ho detto ma salgo a vedere se ci sono altri danni, ma gli ho guardato l'antenna e ho detto che brutta così e senza un elemento, ho mollato i ganci, boom, l'ho abbassata, è scesa come si dice, come da sola, mi ho messo la scalettina, mi ho tolto altri 2 elementi, era già fatto due tappezze, faccio via 3 bidoni di alluminio, adesso c'è il boom lo devo fare tutto a seghetto perché 6 metri e quello non piega col ginocchio, capito? E lo faccio tutto a pezzi, poi piano piano, vertate, ne tolgo anche l'altra, quella la conservo che è nuova, capito? Quindi il mio tempo in questi giorni lo sto trascorrendo facendo alluminio. Avanti Giulio. Così almeno hai avuto una mezz'oretta di lavoro da fare, che è peccato però perché l'antenna, come sono stato bene a tirare giù. Tanto prima lo sai, mentre me l'ho usato, per cui che problemi ci sono. Tornando al discorso dei cani che sporcano le strade, per carità, e ormai quello è un'abitudine del tataretto, che di solito la maggior parte di questa gente porta il cane ma non si degnano di pulire. Tanto è vero, nella strada dove avevo io la bottega, io l'avevo chiamato nome, l'avevo cambiato, anziché chiamata via Cesi, la chiamavo via della merda, di tutte quante le cose, le cagate che c'erano dei cani, una vergogna. Un giorno ho visto una donna che c'era col cane, le dico 4 chili, non c'è mai più passata in quella strada. Qualche volta passava nell'altro marciapiede, però dritta e non si fermava per niente. Una vergogna, gente maleducata, per carità. Ma comunque, avanti Gianni, doppio duro. La situazione si sta complicando. Ci sono diverse persone davanti al proprio soccorso aspettando a fare il tampone. Una fila di persone che ci stanno davanti al proprio soccorso di Sassari. Cosa che ho letto è di un medico inglese che dice che gli italiani non aspettavano altro per non lavorare. Hai visto quella foto che c'è su Facebook già? L'ho mandata anche a mia moglie, ma non sono un gruppo, sono un veri bassoni. No, dico, persone in gruppo, sono una attaccata all'altra, per quello che ho detto in gruppo. E sono una attaccata all'altra, sapendo che devo tenere una certa distanza, sapendo che devo indossare mascherine, sono tutti lì che stanno solo facendo casino, basta, anche perché sono vicino al pronto soccorso e lì se c'è qualche infettato mi infetta tutti quanti, solo un casino. Oh, scusate un attimo. Vi devo lasciare, dai, mi dispiace, adesso non l'hanno chiamata a mangiare, dai, ti saluto, poi avremo modo, no, spero per pochi giorni che duri poco questa roba, perché sennò è l'unico intrattenimento che abbiamo se dobbiamo rimanere in casa. È stato un piacere ascoltarvi, ciao Claudio, ciao Vanni, ciao Giulio, ciao Gianni Doppio Room e tutti gli eventuali amici su Canale 10, ciao ciao, cuoretti da parte mia. Ciao Robè, ciao, ci sentiamo. Ciao, ciao Robè, alla prossima. Ciao Robè, ciao, registrato il break. Ciao Robè, un abbraccio, saluto a tutti, dai, ci sentiamo. Vai Giulio per salutare a Roberto e fai tra i break. Ciao, ciao Robè. Adesso state fatti sentire stasera un po' tardino, però già generalmente già ci siamo quasi tutti i giorni. Avanti il break. Sì, saluto a Roberto, dai, Massimiliano da questa, buonasera a tutti. Buon cuore lì. Ciao, ciao Massimiliano. Saluto, ben entrato. Avanti, Gianni Lubrefetta. Ehi, ciao Massi, mi sembra che abbia bussato Luca. Avanti Luca. Io busso sempre a buon'ora, ciao a tutti. Ciao Luca, dai, corrisci per me, no? Ehi già, così veloce. Dai, ciao Massimiliano. Allucinante, ho visto quella foto. Sono almeno una cinquantina di persone che sono lì al pronto soccorso nel piazzale, che stanno aspettando a fare il tampone. Ma cosa vai a fare? Boh, io non ho capito. Cosa vai a fare? Che casino, guarda, eravamo tranquilli. Che casino che sta succedendo? Scusate, dai, io chiudo. Vi saluto tutti quanti. Ciao Massimiliano, ben entrato. Io sto chiudendo. Ciao Gianni Lombrefetta, Gianni Lombrefetta, Roberto che si è ancora ascolto, Claudio. E Luca che è per entrato. Io rilancio a Luca che è per entrato, ascolta fino a Dio di tutti e dopodiché chiudo. Avanti Luca. Sì, allora, ciao Giulio, allora, salutoni, alla prossima. Avanti Gianni, ripeto. Ehi, allo, guarda che c'hai un rientro alternata, mi sembra sotto, quindi controlla qualcosa. Ciao Giulio, buona serata e alla prossima. Si sente un rientro alternata, non so cosa sia, dagli uno sguardo. Ok, avanti qua. Ciao Giù, ci sentiamo. Al prossimo. Hai visto quella foto, Massimiliano, dell'ospedale civile, del pronto soccorso? Sì, sì, ho visto. Ciao Giulio, buonasera. Sono venuto la sera attaccato alla televisione. C'è un casino nero, ti giuro che sto temendo andare a lavorare domani. Ma ancora sono alternata? Sì. Dove è anche forte, sta abbassando anche la voce. Non ne avevi, Massimiliano. ne abbiamo già parlato, credimi che veramente mi sta venendo l'ansia. Sassari non aveva niente, c'era un caso quasi risolto, mica sono arrivati a 80, allora venne altri 80 in giro, in chili all'ospedale, guarda, un casino. Io domani c'ho un elenco di roba da comprare, devo andare al supermercato, devo andare in macelleria, devo andare al supermercato, devo andare in frutta e verdura. Ho un casino di roba, guarda, ma veramente tantissima roba, perché noi non sono uscito 2-3 volte a prendere cosettine, ma adesso faccio una spesa grossa, perché veramente è preoccupante. Non c'ho manco mascherina io. Vabbè, io stavo scherzando oggi, ma stavamo ridendo, però non c'ho manco mascherina, Massimiliano. Dunque, adesso è vero, se domani mattina ho telefonato al mio medico, siamo molto amici, che tra l'altro abita qua a Serrasecca, ma detto, se ci vediamo domani mattina presto, ne ho qualcuna in macchina, e te la roba, perché cazzo, se no non posso manco uscire. Un casino, veramente un casino, e questo mi dispiace tantissimo per Sassari, questo è perché c'è stata una disattenzione, un po' di cose che non sono andate bene, perché altrimenti l'avevamo veramente a posto. Troppo tardi, si sono accorti a chiudere tutto, quando la cosa era già fatta, capito? Quindi è un casino, adesso io me ne scendo giù, mi ascolto il telegiornale, vediamo un po', perché mi sa che c'è un altro decreto, e vediamo un po', se no mando un messaggio, io domani non ci vado a lavorare, se la piglio in culo te la vado. Guarda Massimina, io ero al telefono con Stefano, perché Stefano è anche va a Olga lo stesso, tra l'altro è preoccupato tantissimo perché il lavoro che fa lui è a livello alberghiero, sai, lui dal Pullman, e ancora lui l'anno scorso ha iniziato a metà marzo a lavorare, figurati, quindi ancora non si sa niente se riprendono, se cosa devono fare, è preoccupatissimo. Mi sto dicendo che a Olbia non c'è un cane in giro, tutto bloccato, tutto fermo, gli aeroporti, anche l'aeroporto, perché lui abita lì vicino all'aeroporto, non ha visto manco un aereo atterrare, perché li hanno dirottati tutti su Elmas, quindi non capisco il casino. Ad Alghero, ti sto dicendo, mia nipote, una lavora all'ospedale civile, la figlia della più grande, la figlia della piccola invece all'ospedale marino, e mi hanno detto: zio, non venire ad Alghero, statene a casa, non ti muovere a casa, perché siamo blindati anche ad Alghero, quindi Massimiliano, mi sembra che mi ha detto: devi andare ad Alghero. Io ti consiglio di fare una chiamata ai signori Belli, io da oggi, perché il decreto, attenzione, non so se l'hai seguito, il decreto legge che ha firmato Conte proprio oggi, mi pare o ieri addirittura, parla che la quarantena rientra nella malattia. Quindi sei libero di stare a casa e metterti in malattia, non succede assolutamente niente. No, mica, mi ha mandato un messaggio adesso un amico che hanno approvato la cassa integrazione, però voglio capirci meglio, va? Ok, dai, vi saluto, così vado a seguirmi il telegiornale, vediamo un po' cosa ne esce fuori, va? La mascherina ci vuole per forza, non puoi entrare in un negozio così, mascherina e guanti se li devi mettere per forza, per la tua salute e soprattutto per quella degli altri, più che altro, ok? Dai, e saluto anche a Luca, io comunque la Luca non gliela sento l'alternata, forse perché sono lontano. Ci sentiamo ragazzi, dai, che vi auguro una buona serata e una buona continuazione, se in caso che non lavoro ci sentiamo qua, ok? Ciao Massimiliano, ci sentiamo, dai. Buonasera a tutti, anche io, dai, buonasera. Ciao Gianni, dai, buonasera anche a te allora, buon QRT. E io sto aspettando che mi chiamaci là. Ciao Massimi, eia, sì, vabbè, quello sì, quello è stato approvato nel decreto che ha firmato, mi pare, ieri sera, ieri notte o stamattina, non lo so, l'ultimo di pranzo. Però insieme a quello c'è anche il decreto che la quarantena o chi non vuole andare a lavorare per paura può mettersi in malattia, rientra in questo decreto legge, capito? Non è che devi essere malato per forza, no, ti metti in malattia e basta. No, non c'è nessun problema. Ok, dai, aggiornami Massimiliano, aggiornami, tanto io sono a casa. Sì, beh, adesso a questo punto guantini e mascherina anch'io, perché domani, ti ripeto, c'è un elenco di cose da comprare, ma proprio un elenco grande che mi ha fatto mia figlia. Rifornisco tutto, i due freezer, tutta l'acqua e quello che serve, frutta, verdura, perché così siamo più tranquilli. Dai. Avanti, Luca, riprendi, fammi sentire. Ciao Flavio, buonasera. Ciao Gianfra, buonasera. Lo profe, così è, bello casino, ma era Misireni, no? Morto, no, un 81enne, cazzo, ha marcato il territorio peggio del cane. Mamma mia, mamma mia. Bobo, vabbè, io prendo la palla al balzo qua, ti saluto, mi sgancio anch'io, salutoni anche agli altri, grazie alla chiacchierata, ci sentiamo presto, ok? Un salutone, buona serata e buona carica a tutti, anche a Gianfranco che è appena entrato. Ciao e alla prossima. Ciao Gian. Anche a te, cordialità e saluti. Grazie alle due chiacchiere, ci aggiorniamo domani, dai. Io rimango in attesa ai notizie. Ciao Gianfra. Ciao Fla. Non hai l'impressione di essere quasi in un carcere di quelli là che sono un film in attesa di sapere la data dell'esecuzione? Guarda Gianfra, in questi ultimi giorni ero tranquillo, sereno, perché ho detto, ma Sassari c'è un caso, lo stanno praticamente, diciamo, è quasi circoscritto, nel senso che controllato, fatto, avevano già igienizzato tutto l'ospedale, tutto, il policlinico l'hanno riaperto, quindi ho detto, cazzo, ma in 12 ore siamo arrivati a 80, con la morte di questo 81enne. Hanno effettato tutta la cardiologia, da lì è partito tutto il baravanzi, siamo già a 80, vabbè, anzi l'80%, quindi 40 siamo. 40, ed è una cosa triste. Poi adesso non so se hai visto quella foto, c'è una foto su Facebook, l'hanno già messa, la stanno facendo girare su WhatsApp, ci sono una cincquantina di persone all'ospedale civile, al pronto soccorso, tutti ammassati per fare il tampone. Quello è un problema, non dovevano farli uscire. Guarda, io non ho né WhatsApp né Twitter né questi social che spesso mandano anche le informazioni a dir poco sbagliate. Comunque, se fosse vero, dovrebbero mandarsi i vigili del fuoco, guidati per mandarli via, neanche nel calcio di storia, perché ormai stanno anche affettati. Però per essere proprio pecore, certo sono pure in tasca di roba, come il diavolo non fa arrivare nessuno sul biglietto. Forse l'unico che è in servizio è l'autobus dell'imbecille. Mi stava dicendo mia figlia che hanno sbagliato comunque, perché lì è in contatto e sono medici quelli che stanno facendo il tampone. Sono medici, infermieri, personale dell'ospedale, stanno facendo il tampone al pronto soccorso, quindi non sono persone, mi sembrava strano, persone normali. Vabbè, a Sassari sono 26 partiti così in pochissimo tempo, era uno, due mi pare, perché c'è morto quello 81enne, ha infettato uno della cardiologia e da lì è partito tutto. Sono 26, in Sardegna siamo già arrivati a 80, cosa che era pochissimo prima, adesso siamo già a 80, però ai 78-80, però in tutta la Sardegna, soprattutto Cagliari e tutte le zone di Cagliari, Nuoro, eccetera. Vabbè, però Sassari sta iniziando a essere preoccupante la cosa. E vabbè, Gianfra, è una cosa che secondo me è stata presa troppo alla leggera. Dall'inizio la Sardegna doveva essere blindata, dall'inizio, alla partenza, dico no alla partenza perché tante cose erano da vedere, da mettere a posto, però dal momento in cui tu permetti a quelli della Lombardia a venire in Sardegna perché hanno le seconde case, questo non è ammesso. Dovevano assolutamente proibire di muoversi, assolutamente. Quindi se noi eravamo blindati, la Sardegna forse era l'unica che si salvava, perché siamo un'isola, devi prendere l'aereo e la nave per venire qua, oppure se c'è l'elicottero a livello personale o l'aereo personale. Però a quel punto lì il blindo era necessario, è stato adottato troppo in ritardo secondo me. Comunque io spero e prego Gesù Cristo che questa cosa si risolva il più presto possibile, perché così non si può più andare avanti. Purtroppo se ne presenta comunque che quando lì è successo il solito turbazione di turno, perché noi abbiamo questa maledizione appresso che c'è sempre qualcuno che deve fare male, in qualsiasi situazione c'è sempre situazione contraria che vuole fare di scherzo, ha provocato con la fuga nei primi la via vista a Milano, no? La gente che si è accavallata lì, si è sparpagliata la testa. Il falso comunicato sulla fuga di notizie è stato quasi un omicidio, questo ha causato tanti casini, è difficile da immaginare, queste cose devono rimanere sul cassetto, non diffuse a cani conti. Poi è successo e adesso sono vestito. Lavoro in grasso, l'unica bravura sarà quella di contenere, di bloccare, di chiudere il tutto possibile. Se no, noi ci abbiamo ancora parecchie chance, perché se realmente la gente risponde, non sta in casa, anche se sono stati difficili, forse in poco tempo ci siamo accavati. Ma se c'è in mezzo ai piedi, poi alla fine di tutto, quando noi abbiamo fatto questo sacrificio, con l'animale inglese che vuole infettare il pane in terra, allora potremmo anche essere tutti a capo. Coscelle, è così infatti. Vabbè, i sacrifici penso che in Sardegna li stiamo facendo tutti, perché tutte le volte io vado al TG le strade sono deserte, sono tutte... tutto chiuso, insomma, però cazzo, già fra le attività c'è una figlia disperata, cioè a casa non sta lavorando, insomma il bar è chiuso, è tutto, ma come lei tanti altri, chi è abituato ad uscire tutti i santi giorni, io non riesco a stare a casa così, come faccio? Non ci riesco, cioè, è 2 anni che non lavoro e però non riesco a stare a casa, mi sono dovuto mettere a fare. Quindi immaginati tu a me stare, poi non è che non ho più quella passione di prima della radio, quindi non posso stare tutto il giorno alla radio. Ho acceso un attimino, entro, esco, faccio, però alla fine mi si gira le balle, perché stare seduto qua a chiacchierare, a fare, vado a vedermi un po' di TV, scendo giù col cane, mi faccio un giretto qua nel mio complesso, dove c'è il giardino, però non scende più nessuno, prima la sera scendevamo a fare 2 chiacchiere, 2, 3, capito? Però scendo giù, mi fumo una sigaretta, mi faccio 2 passi all'interno, non vado da nessuna parte. Fortunatamente è grande, però cazzo non si può stare così, non si può stare, mi viene troppo la malinconia, troppo. Vabbè. Dai Gianfra, ti lascio che mi hanno chiamato a cena, ok? Grazie delle 2 chiacchiere, speriamo bene per tutti, un augurio a tutti, ci auguriamo a tutti che questa cosa finisca, si rimetta tutto in sesto, perché così se torniamo alla normalità ben venga, se no vuol dire che rimaniamo tutti in galera, cosa vuoi ti faccio? Pazienza, me lo vorrò trovare qualche altra cosa da fare, perché stare così a me in radio non è che mi piace più di tanto. Ciao Gianfra, per la cronaca ho fatto già, allora sono 1, 2, forse se domani non c'è vento per far bella giornata faccio il terzo bidone di alluminio, se ti può servire. Il terzo bidone d'alluminio non l'ho capito. non ha afferrato. Non ha afferrato, volevo solo staccare il boom. solo che da solo non me la sento. Adesso appena vediamo, mi aveva la mano uno del mio apparato. Intanto siamo richiusi in casa dal mio vicino. Hanno fatto il tappeto la direttiva, ho tolto gli elementi già. Mi è rimasto uno centrale, mi sono lasciato il radiatore, devo staccare i cavi e togliere anche quello, poi staccare il boom. Il tappeto l'ho fatto. Un tappeto l'ho fatto, ho già fatto. Perché il vento scorso mi aveva quasi rotto il direttore, era dei 10 metri, e poi ci è rimasto quello dei 15, però è tutto sceso, quasi rotto. E quindi per non metterli lì, l'ho fatta tutta a pezzi, l'ho messa dentro il bidone, dentro i secchi della vernice, capito? A pezzi da 20 cm, 30 cm. Adesso quando stacco il buco lo devo tagliare a seghetto perché quello è tosto. E poi quando passa tutto, porto tutto al gosmino. Almeno recupero 100 euro. E vabbè, tanto era vicino, vuol dire, dai, fa tante cose a volte. Non valeva la pena mettermi più sulla mano perché è troppo difficile o perché non ce la facciamo. Quindi arriva la mola e già il seghetto. Sì, no, ma mi dispiace, sai perché? Perché dovevo regalarla quella direttiva. Solo il tempo non ci ha assistito, no? Prendi colpi oggi, prendi colpi domani, poi mia negligenza, si era attaccato un tirante col vento forte, aveva sganciato praticamente il gancio del tornichetto. E quindi mancava una forza molto importante che era proprio quella lì beccio. Era alta, adesso è bassa, adesso l'ho abbassata, abbassato di 2 metri, di un elemento, quindi può fare il tempo che vuole, non succede, poi non ce n'è più antenna, c'è solo quella dei 6 metri e la verticale in punta, ma anche quella tempo buono la butto giù, però quella non mi ha fatto niente perché i radiali sono corti, capito? Ma la tre elementi l'ha disintegrata, io lo sapevo, una spesa buttata qua su, siamo a quasi 50 metri, 45 metri, no? Non è possibile montare antenne del genere, non è assolutamente possibile, qualcuno non ci crede, i tralicci, i miei tralicci, qui e là, ma cosa tralicci, ma voi volete, tralicci dove, con tralicci mio che è da 40 metri, quando c'è l'invece maestrale qua, si notte d'appi, uia, lascia aperte. E quindi niente, comunque la sto smontando piano piano, è rimasto il boom e il radiale dei 15 metri che praticamente è quasi per terra. E poi niente, la lascio stare così, poi a tempo buono metto la scala e tolgo anche, perché non ci arrivo a staccare il cavallotto di quella della 5 elementi dei 6 metri. Quella, visto che è nuova, non la faccio a pezzi, la metto lì, la smonto, la metto sul tetto, qualcosa servirà, se la vuole qualcuno viene, se la prende. Va bene, dai Gianfra, vado a cenare, grazie alle due chiacchiere, ci sentiamo, e ripeto, e speriamo che vada tutto bene, e se no io la mattina devo per forza uscire, ho già preparato mascherina, guantini, tutto. Devo per forza uscire perché c'è un mare di spesa da fare perché noi non abbiamo mai fatto niente, io uscivo tutti i santi giorni, poi questo nuovo decreto ha proibito tutto e quindi mi sono un po' incasinato. Vabbè, dai, ciao di nuovo Gianfra, a domani. Ciao Claudio, buona serata, come diceva quello, speriamo di cavarcela, non so che dire, sono nella mano del Signore. Se ti posso fare una domanda, ma perché non te ne vai in una casa nuova, tranquillo, almeno esci, c'è la campagna, c'è l'aria, c'è tutto, non è un po' meno prigione, ecco, dai, che sopportato. Non ci vuole andare, mia moglie, siamo qua, lo già. Non fa, anche perché vai a isolarti ancora di più, Gianfra. Isolati ancora di più, cioè qua sei in condominio, è tutto economia abbastanza solidale, siamo sputi dentro casa, però sai, vedi, fai, mentre scendiamo butta la mondezza, due chiacchiere anche a distanza. Quando ti isoli così, no? Oh, è ancora peggio, Gianfra, assolutamente. Ci avevamo pensato, ma no, in questo momento è meglio stare qua, va. Va bene, Comunque se, vabbè, le bombine mi pare che ho, le bombine, 10, quelle dei 15 sono attaccate, quelle dei 20, sono le bombine dei 10 e dei 20. Il KW, bisogna che lo dica a qualcuno se servono, quelle sono nuove, anzi no, una era piena d'acqua, una era completamente piena d'acqua, quindi sicuramente non serve a niente. Va bene, dai Gianfra, ti saluto, vado a cenare, dai, ci aggiorniamo comunque, se mi devi dire qualcosa ci aggiorniamo per telefono, ok? Ok, sentiamo, dai, buona serata, alle prossime, ogni tanto la faccio qui, tanto sono sempre l'ascolto, fatto che io sono proprio a casa, Sì, Gianfra, no, ma guarda, oggi proprio ho acceso tutto, la verità, addirittura ho fatto anche un paio di passaggi in VHF, poi ero in 40 metri, stavo parlando con Mimmo e con Sergio, poi è stato Michele da Cagliari, di vicino a Cagliari, 40 metri, due chiacchiere proprio così, ma non c'è più quella voglia neanche di stare in radio, quindi alla fine, infatti è tutto spento, mi c'è questa accesa. Sto andando con le fuate che ne ho preso, c'è il 430, il 440, il 140, è sempre tutto spento, accendo molto di più il 440 perché sai, non accendendolo può difettare, quindi mi dispiace, le altre sono quasi sempre spente, però oggi un po' di radio l'ho fatto, dai, adesso vediamo se domani ne ho voglia. Ci riproviamo, però se per la giornata ne salgo su e completo quel lavoro dell'antenna, anche se non ci deve essere vento per niente, perché devo appoggiare praticamente la scaletta che è di 1,50 m con la fascia legata alla gabbia e sganciare l'ultimo radiale che è rimasto, poi il boom, vuol dire lo staccherò con calma, perché lì bisogna essere in due. Che se mi scivola cade giù, capito? Devo sfilarlo dal cavallotto. Ciao Gianfra, di nuovo, dai, ci aggiorniamo telefonicamente, se no ti faccio venire a paranoia. Ciao. Ok, ciao, buona serata. Ciao, ci vediamo bene, no? Ok, ciao anche a Marco che sta facendo colazione. Ciao. Ah, il suo chiamare di Marco Condor, quello sempre sta facendo merenda adesso. Sono anche orecchione. Beh, questo lo sapevi. Non ho avuto voglia di entrare, sono al computer e sto facendo roba, dai. Buonasera a tutti, per modo di dire. Ciao Marco. Anche il computer mi sono stufato, è tutto il giorno acceso, l'ho spento poco fa, quindi. Vabbè, dai. Speriamo bene per tutti. Dai, ciao Marco. Ciao di nuovo Gianfra. Ciao Claudio, dai. Vabbè, ho sentito molto che è abituato a uscire molto, ne stai soffrendo. Io ancora, io uscivo solo a fare commissioni, più che altro pure la domenica a Plaza Mona. E quindi televisione, computer, così, qualcosina in casa, solite presserie, cucinare, lavare i piatti. Ma non mi lamento più di tanto, perché io già facevo uno stile di vita casalinguo. Vabbè, diciamo che la verità, nessuno di noi avrebbe mai immaginato di perdere la libertà e di dover denunciare volontariamente la libertà per una cosa così incredibile, così di attesa. Che palle, vabbè, aspettiamo che passi la tempesta. Domani forse devo comprare cose essenziali tipo acqua, latte, il resto ce l'abbiamo bene o male, al limite un po' di frutta, un po' di dolce, no? Tutto lì. Vabbè, che te devo dire? È una punizione divina forse. Che altro c'è qua che ero distratto? sì, ho sentito il nome, ha detto, a me. Che altro c'è? Antonello, Antonello, ciao, dopo un secolo. Poi ho sentito che c'era una bella ruota anche, ti faccio la battuta che ho fatto già agli altri, non l'avrei già sentita, ha detto, ci è voluta un'epidemia per far entrare un berigetto al baracchino, se no non sarebbero mai entrati. E io, ciao Antonello, dai, speravo in migliori occasioni, invece così è. Chi altro c'è qua, dai, riprendete pure, io proseguo. Ok, allora anch'io me la capo, ciao Antonello, buona serata, anche il capovia, buona serata a tutti e alle prossime. Ehi, ciao Gianfra, ma credo che siano andati tutti a mangiare, visto l'ora. È probabile, per una cosa ho parlato. Ehi, va bene, ciao a tutti, ciao ciao ciao. Ciao, ciao, tanto, buona serata. Antonio mi dice dove sei, non ho preso vita, a me non mi ricevi, questo segnale è perfetto, però dovremmo uscire, vediamo un po', quindi faccio gallerie di miglio, le gallerie davvero praticamente, quindi è per quello, io sono sulla 57 di... Aspettiamo fare saluto Antonello, ciao Antonello. Mi sembra che ti ho sentito oggi, non mi ricordo se ti ho salutato o meno, ma non abiti più su in alto, sei giù? Scappa, ma la stai vendendo l'altra? No? Vabbè, ok, dai, ti saluto allora Antonio, perché non mi ricordavo se ti ho salutato oggi, comunque vabbè, tra me e te non ci sono problemi, sei 9 più 30, quindi va benissimo, se non me lo dicevi non me ne sarei neanche accorto che ti eri abbassato di posizione, siamo talmente a un tiro di schioppo che non ci sono avversari, dai che io avevo già chiuso, lascio sempre acceso, ti ho sentito, sono entrato a salutare, ti lascio con Gianfranco un attimo che volete rimanere, ti saluto Antonio, ciao, alle prossime, ciao di nuovo a Gianfranco, ciao anche a Marco di nuovo, vai Antonio. Sì, ok Antonio, allora a domani, buona serata, buonanotte, e speriamo domani di avere un pochettino di luce in questo